Yeah, Mozilla is a worldwide open source project. That means Mozilla that è un anyone in the progetto world mondiale can open participate source. in the Questo development significa che of chiunque nel mondo può Mozilla partecipare allo products sviluppo such dei as prodotti Firefox. Mozilla come The Firefox. open source project is supported by the Mozilla Foundation, Il progetto which è is a US sostenuto dalla foundation that Fondazione supports Mozilla, che è our una fondazione statunitense nella quale lavorano circa 150 persone in tutto il mondo per sviluppare i prodotti Mozilla. of Mozilla products. Senti, in un mondo così ricco come quello di Internet, perché stiamo parlando di una fondazione non profit? It's simple. Mozilla's mission Beh, is è what we'll say semplice. choice and innovation on the internet. La We missione di think that the Mozilla è web quella che is noi the playing chiamiamo possibilità di scelta e innovazione su Internet. Pensiamo che il web sia così importante da non poter essere controllato da una sola azienda. Quindi vogliamo che Mozilla sia un'entità no profit che possa durare molti secoli per garantire un accesso libero ai contenuti tramite software, PC o altri strumenti. computers, devices, software, etc. And so we wanted to make sure we stayed focused on that mission, Quindi not vogliamo be rimanere distracted focalizzati by, su questo obiettivo trying to senza make a essere profit, distratti dalla necessità di fare profitti. which may detract from that mission. Lei ci ha detto che Mozilla Foundation ha 150 dipendenti in tutto il mondo e comunque per realizzare un software di questo tipo e tutti i software che sono collegati a Firefox sono necessari molti investimenti. E quindi come vi finanziate? Thanks to the success of Firefox, I think Grazie al this is successo di an Firefox. E amazing penso che questo step sia for uno open source straordinario and open successo per source l'open technology. source e in generale per i prodotti liberi. Completely open, anyone can download and build it themselves, Ricordiamo che è completamente but aperto. we are Chiunque lo può committed to scaricare dalla making rete e sure costruirlo a that piacere. with any Grazie a questo open riusciamo a project, ricavare denaro dalle relazioni con molti dei fornitori di contenuti e servizi integrati in things Firefox. like Google and Yahoo and Amazon and eBay, Parlo di cose come Google, using Yahoo, maybe searches Amazon or o even eBay, commerce through the Firefox browser there, grazie al fatto che gli or utenti, tramite il browser Firefox, fanno delle ricerche o del commercio elettronico. In questo modo riusciamo ad avere un rapporto commerciale che finanzia la Fondazione Mozilla. to get funding for the Mozilla Foundation. Prima di parlare della nuova versione di Firefox numero 3, volevo chiederle quali altri progetti esistono all'interno della Mozilla Foundation. So there's Firefox, which is our most well-known product, which is the web browser. Dunque, c'è Firefox, il programma di navigazione sul web che è il nostro prodotto più importante. There's also Thunderbird, which is an email Poi client. c'è Thunderbird, un programma per la gestione della posta elettronica che è altrettanto And popolare. there are a number of Ci other sono poi software centinaia di projects altri that we progetti work open on source che stanno tutti sotto l'ombrello di Mozilla. working. Se andate sul sito mozilla.org potete vedere tutti i progetti in cui siamo coinvolti. Mozilla.org, you will find out all the information on the different projects under the Mozilla Open Source umbrella.